in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Abbiamo ripreso questa abitudine del sabato molto presto al mattino e oggi iniziamo da Vox Europe, quel sito che vi segnalo sempre perché fa questo egregio lavoro di monitoraggio di tante riviste e pubblicazioni online o cartacee in Europa e non solo, e quando sono in una lingua che sicuramente non sarebbe facilmente accessibile, ma anche quando sono in lingue più accessibili come possono essere l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo, Vox Europe le traduce. In questo caso il titolo che vi segnalo è di una giornalista francese, Charlotte Fred, e si intitola I Dreamers Europei, una generazione nel limbo della cittadinanza. Perché Dreamers, letteralmente sognatori? Perché questo è il nome che viene spesso usato per indicare i veri Dreamers, cioè i figli di immigrati che negli Stati Uniti sognano la cittadinanza. È un problema che va risolto anche dal punto di vista legislativo, che per ora l'amministrazione Trump non ha risolto, che del resto la precedente amministrazione Obama si era impegnata a risolvere, ma poi non è successo. Ma si scopre da questo articolo che anche in Europa abbiamo un problema simile. In tutta Europa milioni di giovani cresciuti sentendosi britannici, francesi, italiani o semplicemente europei vivono nel limbo della costante minaccia dell'espulsione che incombe su di loro. Negli Stati Uniti sono noti come Dreamers, sognatori, persone che hanno vissuto negli Stati Uniti senza documenti ufficiali da quando sono arrivati nel paese minorenni. Anche l'Unione Europea ha la sua generazione di Dreamers, ma le storie di queste persone sono sconosciute. In realtà però, appunto, sia il Guardian che poi anche altri mezzi di comunicazione hanno cercato di esaminare il fenomeno e Vox Europe ne dà conto. Un altro articolo interessante che riguarda strettamente l'Europa e in particolare l'Italia è quello delle infrazioni, cioè i vari contenziosi tra Commissione Europea e Stati membri. E qui Daniele De Bernardin, che appartiene al collettivo di giornalisti Open Polis, ci spiega questo strumento Infringe AI, che poi è scritto in un modo che appunto unisce le due parole infringe, cioè violazione, e AI, occhio, quindi uno strumento online che permette di capire quante violazioni alle norme europee i paesi hanno registrato negli ultimi 10 mesi. Tra l'altro l'Italia, come dicevamo, e se ne è parlato tanto anche all'inizio del dibattito su come mettere a punto il recovery plan e poi come verrà usato il recovery fund, si è purtroppo spesso ricordato che la nostra storia di utilizzo di fondi europei già stanziati non ci fa onore, nel senso che spesso i fondi ci sono, ma per una serie di problemi, tra i quali il primo resta sempre l'iter burocratico, Questi fondi a disposizione non vengono utilizzati. Cambiamo però paese, spostiamoci in Germania, dove comunque anche lì ci sono gli stessi crimini, perché credo che gli esseri umani siano poi alla fine molto simili in qualsiasi paese li si osservi. E in Germania c'è, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, questa polemica che ruota intorno al ministro delle finanze Olaf Scholz, che avrebbe avuto dei contatti con una banca che poi è accusata, in questo momento tra l'altro lui è vice cancelliere, quindi oltre a essere ministro delle finanze è anche il vice di Angela Merkel, appartiene però al Partito Socialdemocratico, non alla CDU di Angela Merkel, perché sapete che in Germania c'è questa grossa coalizione, c'è una coalizione che mette insieme forze sulla carta molto diverse, c'è una forza di centrodestra come la CDU e una di centrosinistra come la SPD, ma Scholz, scrive la Süddeutsche Zeitung, brilla con formidabili buchi di memoria. Il quotidiano è tornato ad attaccare il ministro delle finanze sui cosiddetti cum-ex, cioè tutte quelle procedure, appunto speculazioni finanziarie che anche lui avrebbe fatto, comunque di cui sarebbe stato al corrente tra il 2016 e il 2017. Vedremo, perché sembra che alcuni quotidiani tedeschi non mollino l'osso su questo. Molto spazio è stato dato naturalmente anche a quell'allarme, quella sirena che è suonata in tutta la Germania alle 11 di giovedì. La Bild in particolare, il quotidiano tedesco a più larga diffusione, si calcola che abbia circa 6 milioni di lettori ogni giorno. È anche un quotidiano proprio di stampo popolare, quello che gli inglesi chiamano tabloid. Comunque aveva in prima pagina questa scritta ui ui ui ui ui ui ui, che ovviamente doveva essere una sorta di trascrizione del suono delle sirene. Che cos'è stata questa sirena? Su tutto il territorio tedesco è suonata questa sirena a partire dalle 11, in partita da caserme dei vigili del fuoco, scuole, municipi. Era una sorta di esercitazione, era dall'anno dell'unificazione che non capitava, quindi erano 30 anni. Circa 20 minuti, è un modo per esercitare tutti a lasciare al suono della sirena le loro attività, una sorta di evacuazione di massa. E naturalmente perché? Il coronavirus questa volta non c'entra. Il capo della Protezione Civile Federale ha spiegato, Christoph Unger ha spiegato, che è semplicemente una esercitazione che deve servire soprattutto in caso di catastrofi naturali come terremoti, alluvioni, ma anche incidenti radioattivi. Sicuramente un po' inquietante, però è andato tutto bene. Del resto, dicevamo, gli esseri umani siamo uguali su tutto il pianeta, però poi la cultura e la storia di una società hanno il loro peso. Naturalmente, se c'è una cosa che i tedeschi sanno fare, sempre generalizzando, è seguire un ordine, quindi questo ordine di evacuazione è stato seguito con una solida disciplina tedesca. Molto interessante che gli approfondimenti che ci sono stati apparsi sui quotidiani francesi sul vertice informale cosiddetto MED7 che si è tenuto in Corsica, quindi sul territorio francese. Macron, nonostante potremmo dire tutti i problemi che comunque ha la Francia in questo momento dal punto di vista della potremmo chiamarla, per intenderci, la seconda ondata di coronavirus, un numero molto alto di contagi nell'ultima settimana, quasi 50.000 in una settimana, tra l'altro le scuole in Francia hanno riaperto molto prima di quelle italiane, ufficialmente il 1 settembre, quindi ci sono parecchi problemi da gestire internamente. Forse anche per questo Macron ha preferito dare spazio più alle sue parole sulla scena internazionale. In Corsica c'erano rappresentanti dei principali paesi europei, si è parlato, e ne hanno parlato molto Le Monde ma anche Le Figaro, si è parlato del ruolo che l'Unione Europea può e forse dovrebbe avere nello scontro che per ora non si è ancora trasformato in un vero e proprio scontro armato, però ci sono state minacce da entrambe le parti, tra Grecia e Turchia. E naturalmente Macron, essendo anche il padrone di casa, ha cercato di anticipare o promettere un aiuto, una sponda europea, concretamente però non c'è molto, anche perché lo sappiamo, i rapporti con la Turchia sono molto complessi, sembra quasi che si abbia tutti un po' paura di provocare una reazione di Erdogan, che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti un dittatore, perché benché in Turchia si siano svolte regolari elezioni, ha introdotto tutta una serie di leggi anche per cercare di limitare al minimo il dissenso interno, e anche sulla scena internazionale si sta muovendo con una certa prepotenza. Pensiamo a quello che è successo in Libia, adesso quello nel mare che divide Grecia e Turchia, e in generale il suo atteggiamento verso chiunque voglia limitarne le mire espansionistiche. Molto interessante a proposito di Covid anche il caso Israele, perché Israele tra l'altro si avvicina una delle più importanti festività del calendario religioso ebraico, Rosh Hashanah, che comincia il 18 settembre. Quindi il paese comunque, come sempre quando ci sono delle festività, ci sono anche più rischi, lo abbiamo visto benissimo per il periodo di ferie estive in tutta Europa, però in Israele si può decisamente parlare di una seconda ondata e quindi si parla anche di un altro, di un nuovo lockdown che potrebbe durare un mese. Se ne è parlato sui quotidiani, non ci sono però per ora conferme ufficiali, anche perché eventualmente se ne parlerà dopo il 15 settembre, quindi settimana prossima, perché il 15 settembre Netanyahu tornerà da Washington, dove avrà firmato l'accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti, che per i quali sapete è considerato così importante questo accordo che addirittura c'è una candidatura di Donald Trump, che è stato un po' il sensale di questo accordo tra Israele e Emirati Arabi Uniti, per il Nobel per la pace. Concludo con una segnalazione dall'Economist, tradotto nel numero di Internazionale di questa settimana, che tra l'altro ha una copertina interessantissima intitolata L'ombra di QAnon, cioè QAnon sulla politica americana, inchiesta su un culto complottista sempre più pericoloso. Però invece, per argomenti così un po' meno pesanti, la traduzione di questo pezzo dall'Economist, che si intitola La somiglianza tra i sogni e la realtà. L'attività onirica sembra riflettere la nostra esperienza quotidiana. Alcuni ricercatori hanno studiato questo legame con un algoritmo di analisi del linguaggio. Era l'ultima segnalazione per oggi. Non vi do appuntamento a domani per la rassegna stampa italiana, perché per una settimana, domani non ci sarò. Ci sarà Mauro Meazza e non ci sarò nemmeno lunedì. Faccio una micro vacanza. E quindi vi do invece appuntamento, per chi vorrà, a martedì durante effetto giorno, circa le 13:45, per Effetto Mondo. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.